noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Mi dispiace da morire di chiudere la mia esperienza con la federazione in questa maniera, perché tutto pensavo meno che questo. Non dico che pensavo di rivincere il mondiale, però di fare sicuramente qualcosa di diverso. E perciò, ripeto per l'ennesima volta, me ne assumo completamente la responsabilità di tutto, delle scelte e di come ho presentato questa squadra in queste tre partite. Al termine della partita ho parlato con il presidente federale, con Demetrio Bertini, con Antonello Valentini, e visto che il progetto tecnico è di mia responsabilità, ho detto loro che rassegno le mie dimissioni, perché quando un progetto tecnico fallisce è giusto che ci si prenda la responsabilità. Ma che c'è da chiedere se non dimettersi? Perché non si dimette? Ho detto che non posso parlare, quindi io sono corretto, ti ho detto la mia disponibilità futura, ma non adesso. Ma nel 2010 Lippi si è dimesso subito dopo la partita in conferenza stampa, nel 2014 Prandelli uguale insieme ad Abete, e almeno loro ai mondiali c'erano arrivati. Perché non si dimette? Che aspetta? Ti ho dato la mia disponibilità. No, una risposta. Fermiamoci, dai, basta. Che mondiali saranno senza Italia? Brutti, questi brutti. Psicodramma collettivo, atto terzo, giorno terzo. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Proviamo a sorriderci sopra, anche se stiamo ancora versando lacrime, anche le vostre. 800240024, numero verde. Abbiamo sentito Lippi nel 2010, Prandelli nel 2014, Ventura ieri, avvicinato dalle Iene. Pierluigi Pardo, buongiorno. Pardon. Buongiorno, come va? Benissimo. Se ti faccio una domanda da trivial. Mi senti, vero? Sì. Ok. Ti faccio una domanda da trivial. Quanti anni Antonello Valentini è stato in Federcalcio? 27. Ti rispondo praticamente con la stessa voce di Antonello Valentini. Ti dico che sono stato 27 anni e adesso mi sono ritirato a vita privata. È così? C'è Antonello Valentini? Sì. Lo dici tu che mi sono ritirato a vita privata, lo dici tu. Ti mancava no! Sembravi Cassano più che Valentini, posso dire. Esatto, no, ti mancava Franco Ordine. Franco Ordine. Non c'ho lo stesso conto in banca di Cassano. Bari, insomma. Quanti anni sei rimasto in Federcalcio, Antonello? 27. Allora hai ragione, parte che vuoi di più, anche se l'imitazione era pessima. Senti, sì, sono il biografo. Non c'ho lo stesso conto in banca di Cassano io, Vabbè, arriviamo a bomba, che se mi diverto in più a dire queste cose. Posso raccontare. Mm-hmm. Posso raccontare una conversazione privata, credo di non dire nulla, che insomma io e Antonello ieri ci siamo sentiti, e Antonello è una di quelle persone, siamo tutti un po' in lutto, anche se il lutto non mi ricordo chi lo diceva ieri, sportivo, è una parola forse esagerata, aggiungi l'aggettivo sportivo, no? Aggiungi all'aggettivo sportivo, sì, ma è ovvio, ovvio stiamo parlando di sport. E devo dirti che mi colpisce sempre, perché insomma per Antonello Valentini la nazionale e la federazione è veramente un figlio, è veramente un pezzo di vita. E io ho sentito ieri nelle sue parole, che adesso mi arrogo il diritto di rendere pubbliche, un'emozione e un dolore che probabilmente pochi di noi hanno, perché veramente quello è un pezzo della sua vita, e vedere finire così male questa storia a lui immagino abbia fatto ancora più male che a noi. È così? Cosa hai detto a Pardo ieri? Dai, è così, io ero lunedì a San Siro, il presidente Tavecchio mi aveva invitato alla partita, ci sono stato a tifare fino all'ultimo e non ci potevo credere, onestamente. 27 anni nei quali ho vissuto dentro la nazionale non si possono ovviamente cancellare, mi dispiace soprattutto per i giocatori, da Buffon, De Rossi, Chiellini, Barzagli, più anziani, quelli che ho conosciuto meglio e con i quali sono ancora in ottimi rapporti di amicizia, e non ci posso credere, perché al di là del risultato del campo, che è disastroso per tante ragioni, si è rovinato un clima all'interno del gruppo azzurro, della nazionale, un clima fatto di solidarietà, di rapporti umani, di stima, di professionalità, e questo è un danno che al di là, ripeto, del risultato del campo ci porteremo avanti per un po' di tempo se non si cambia immediatamente registro. Ecco, a proposito di cambiare registro, oggi ore 16 Consiglio federale, dicevo, psicodramma collettivo 8 terzo, perché io prendo sempre come parametro il bar dell'angolo. E gli si dice, ma allora Tavecchio si dimette o no? Ma allora Ventura che fa? Vuole sti 700, sto milione che aspetta ad andarsene? Blippi è andato via, Prandelli è andato via, Ventura dice sono il miglior commissario tecnico della storia del calcio italiano. Forzo, però ha detto una roba del genere che non ho nemmeno approfondito. Dicevo, Consiglio federale, che succede Antonello? Quali sono, guarda, i passaggi secondo te che succede? Mi permetterai una precisazione, ma è utile per far capire che non è un Consiglio federale, è una riunione dei presidenti delle componenti, e saranno praticamente sei persone: Tavecchio, Ulivieri, Nicchi, Tommasi, Sibilia, cioè i presidenti delle componenti. Non è un Consiglio federale tecnicamente convocato. Succede, secondo me, che sarà esonerato immediatamente Ventura. Io devo dire, a proposito di Ventura, che conosco bene naturalmente, di cui ho stima come allenatore e come persona, che mi sarei comportato diversamente. Voi avete lanciato in apertura di trasmissione le dichiarazioni di Lippi nel 2010 e di Prandelli del 2014, avvenute 20 minuti dopo. Certo, la fine ma delle questo, partite. Guarda, questo l'abbiamo già sottolineato ieri. La forma diventa sostanza. Perché mi questo linciaggio ovvio, normale, prevedibile, che Ventura, questo trattamento che Ventura sta subendo in questi giorni in mancanza delle sue dimissioni, non se lo merita, ma se l'è cercato, sì. Ecco, per dirla con estrema franchezza. Detto questo, io non so se a questo punto Ancelotti sia disponibile. A me risultava, quando si ipotizzava che potesse prendere una nazionale qualificata ai mondiali e gestire quindi solo il periodo di mondiali in Russia, risultava che non sarebbe stata disponibile. La scena adesso è completamente cambiata. Carlo ha l'autorevolezza, le competenze, il prestigio personale, la conoscenza del gruppo, della nazionale. Certo. Io me lo ricordo Italia 90, io già c'ero, sono abbastanza vecchio, me lo ricordo vice di Sacchi in USA 94, e c'ha 10 mesi di tempo. Questo è uno dei drammi da un lato e una delle fortune dall'altra. C'ha 10 mesi di tempo per ricostruire un ambiente e una squadra, perché noi da qui a settembre prossimo, tra 10 mesi, siamo delle comparse nel panorama internazionale. Noi abbiamo due amichevoli, purtroppo. È chiaro, due tristissime amichevoli. C'è anche l'ipotesi di Biagio traghettatore, non so quanto realistica, praticabile, realizzabile. Di Biagio ha detto magari anche no. Non so se sia il momento emotivo per scegliere il nuovo commissario tecnico. È chiaro che Ancelotti è il nome più gettonato, e poi c'è da domandarsi chi sceglierà il commissario tecnico, perché Tavecchio oggi si dimetterà oppure no? Ma a me non risulta che Tavecchio voglia dimettersi, non mi risulta che presenterà le dimissioni. Io su questo quando mi consentirete di dire che mi attengo alle sensibilità personali e alla coscienza individuale delle singole persone. Ho letto ieri e ho sentito le dichiarazioni molto forti, molto pesanti del presidente del CONI, che a un certo punto ha detto il signor Tavecchio, cioè vuol dire anche nel tono, anche nella scelta di vocaboli si è colta una grossa pesantezza, più quella del ministro dello sport. Però Malagò, e qui va ricordato, il presidente del CONI non ha, è giusto dirlo, è giusto ricordarlo, lui lo ha già detto più autorevolmente di me, non ha lo strumento tecnico regolamentare per commissariare la federazione. Attenzione, non solo, ma ti dico di più, che se Tavecchio dovesse dimettersi, non è detto che si arrivi subito al commissario. C'è un vicepresidente vicario eletto dall'assemblea, che è il senatore di Forza Italia Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, uomo forte della federazione, che potrebbe gestire i 2, 3, 4 mesi fino all'assemblea generale per il rinnovo delle cariche. Perché adesso ridevi, Pierluigi? No, non sorridevo. Sto usando il codec, quindi non so se il codec è in grado di partorire sorrisi. Io no, ti dico, prima posso dire una cosa? Sì, posso aggiungere una cosa? Io ti dico la verità. Che come uomini di calcio, dirigenti attuali, io come commissario straordinario, nel caso in cui si arrivasse, vedo o Malagò in persona, come fece il presidente del CONI Petrucci a suo sì. tempo, che si autonominò sì. presidente del commissario straordinario della federazione, o il vicepresidente vicario Sibiglia. Non vedo uomini di struttura corresponsabili uh-huh. di questa situazione, di questa gestione, che possano assurgere al ruolo di commissario, straordinario della Federcalcio. Allora, vi chiedo con grande Antonello, ti chiedo, e grande serietà. Sì, certo, ti chiedo un istante di pazienza per il traffico, poi parto con un'ultima cosa. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. Convocati. Ecco che torniamo, Pierluigi Pardo naturalmente, Antonello Valentini. Pierluigi, tu quale soluzione ti auguri? Quale scenario attuale ti auguri? Credo che non è... Vabbè, dal punto di vista tecnico è chiaro che Ancelotti ha una suggestione magnifica. Qualche giorno fa, prima della partita di ritorno, consideravo Ancelotti l'eventuale eccezione alla regola che chi si qualifica poi debba giocarsi il mondiale, nel senso che per Ancelotti ho un'ammirazione talmente sconfinata che veramente potrebbe essere l'uomo giusto. Bisogna capire se ne ha voglia, perché a me risultava il contrario, però certo. può darsi pure che questo momento di difficoltà, di confusione del nostro calcio, una sorta di chiamata quasi di resistenza nazionale, no? Vista la gravità del momento, magari Ancelotti ci penserà. Sarebbe bello cominciare un nuovo corso con lui, anche se poi è evidente che la vita, Antonello lo sa benissimo, la vita dei commissari tecnici delle nazionali e la natura stessa delle competizioni per nazionali è talmente veloce, talmente mutevole, certo. attesa agli episodi. Cioè Lippi una volta ha vinto il mondiale, una volta ha fatto una brutta figura, pareggiando 1-1 con che non hai certezze. Con i parrucchieri neozelandesi. Voglio dire una cosa impopolare che voglio far commentare ad Antonello Valentini prima di salutarlo. Allora, se Giampiero Ventura, che ovviamente ha fallito tutto quello che poteva fallire da ogni punto di vista, su questo siamo d'accordo, oggi verrà dimissionato, eccetera, come è giusto che sia, avrebbe dovuto rassegnare dimissioni come fecero Lippi e Prandelli a loro tempo. Però io dico, se quest'uomo, che ha chiuso praticamente la carriera in questo modo, che in questo momento è la persona più impopolare del nostro paese, vuole i suoi 700.000 perché così è prescritto sul contratto, vabbè, anche è scritto sul contratto, vabbè, anche tutto questo linciaggio collettivo, tutto questo ha un prezzo. Cioè, non, male non fa, secondo me. Ma io credo che lui abbia diritto, devo rispondere io? Vai. Io credo che Ventura abbia diritto a prendere i soldi fino alla fine del contratto, ma questo poteva essere un accordo con la federazione nel momento in cui lui si fosse dimesso, si fanno delle transazioni e si riconoscono i soldi che gli spettano, perché Ventura, secondo me, ripeto, doveva dimettersi di sua spontanea volontà. Sì. Detto questo, io mi auguro per il futuro Ancelotti CT della Nazionale dopo un azzeramento dei vertici della federazione. Non è giusto, a mio modo di vedere, che paghino soltanto Ventura e Tavecchio, il quale Tavecchio peraltro aveva ipotizzato un ticket iniziale con Lippi al fianco di Ventura, ed era un'ottima idea. Qualcuno all'interno della federazione ha remato contro questa soluzione, che Ventura fosse nominato direttore tecnico della nazionale, basta leggersi le correzioni dei giornali. Ieri c'è stato il vicepresidente della federazione con delega alle nazionali, Renzo Rivieri, l'uomo rivoluzionario antisistema, l'uomo che si vantava di dormire con il busto di Lenin sul comodino, che ha avuto la faccia tosta di dichiarare al Corriere dello Sport entrare nel mondiale non era nel programma elettorale di Tavecchio. Beh ragazzi, allora mi alzo le mani, avete stravinto sì. Quindi quando è giusto che paghino soltanto Ventura e Tavecchio, va azzerato il vertice della federazione nella struttura e nei ruoli politici. Villa Pier, a proposito di questo, posso chiedere una cosa finale? Sappiamo che c'è stata questa presa di posizione di Infantino, che in qualche modo secondo me è anche un'ulteriore conferma che Tavecchio, dal punto di vista politico, strettamente di politica sportiva internazionale, non si era mosso male. Lui ha di fatto appoggiato Čeferin, e sappiamo che oggi c'è una Champions League per le squadre italiane, per le squadre dei grandi paesi, molto più vantaggiosa della prossima stagione, ha capito subito che Infantino poteva essere una strada giusta. Quindi secondo me, dal punto di vista, diciamo così, machiavellico delle posizioni politiche, non si è mosso male. Ma tu sei d'accordo, parzialmente d'accordo, in quello che dice Infantino oggi su Tavecchio, cioè che non ha fatto male? È un'entrata da due piedi, da cartellino rosso sul campo di calcio, la trovo inopportuna e inelegante. Ecco, risposta secca. Tranciandi, Antonello Valentini, grazie. Grazie, grazie Antonello, voi. A presto. Allora, abbiamo spiegato e provato a capire un po' di cose. Sentiamo un paio di ascoltatori adesso. Massimo, buongiorno, da Udine. Pronto, buongiorno. Io volevo provare a spiegare la cosa, cioè questo dramma così nazionale, e stemperarlo con una visione più d'insieme, diciamo, nel senso che io vedo che questo allargamento a 32 squadre del mondiale ha causato dei calendari, dei gironi, ma un po' dappertutto, dove le sorprese non sono mancate, nel senso che nazionali come blasonate come la nostra, tipo l'Olanda, o altre nazionali forti attuali come il Cile, come il Ghana, se vogliamo anche gli Stati Uniti, alla fine sono state eliminate. Non voglio difendere Ventura, perché un anno e mezzo fa Conte ha dato un'anima all'Italia che adesso abbiamo completamente perso. Però volevo vederla così, in un modo più mondiale. Sì, Massimo, le sorprese sono bellissime, però voglio vedere, insomma, chi proverà interesse, al di là dei cultori della materia, a un mondiale, non dico allargato da 32, perché il prossimo sarà 48, e quindi lì voglio vedere chi non entra. Però soprattutto voglio vedere a chi mondiale a 48. A chi interessa un mondiale con Panama, con tutto il rispetto, è per l'allargamento e per le sorprese. Però alla massima rassegna ridata si vogliono vedere le migliori e i migliori squadre e giocatori. No, ma questo è il discorso che faceva ieri Giuseppe Cruciani, secondo me è un discorso giusto, cioè ci sono poche europee in relazione a quella che è la qualità del calcio europeo. E aggiungo io che quel girone con la Spagna è un girone assurdo. Beh, è un girone che nasce però dalle nostre colpe, perché sappiamo che noi nelle amichevoli non brilliamo e quelle purtroppo incidono nel ranking. E quindi, insomma, siamo un po' causa del nostro male. C'è poco da fare, come anche il famoso non essere testa di serie nel mondiale precedente era dovuto, vi ricorderete, a una serie di risultati poco brillanti in occasione di partite dallo scarso contenuto. Questa è un po' la natura e l'indole degli italiani. E qui è andato tutto male quello che poteva andare male. Io su Ventura, ti dico la verità, sono d'accordissimo con quello di Antonello, cioè io capisco che se uno si dimette poi tecnicamente in quel momento rinuncia ai soldi, ma penso anche che ci sia una questione di stile. Quindi no, se Ventura si l'abbiamo fosse detto, dimesso, Piero, l'abbiamo detto ieri, se Ventura la forma diventa sostanza detto, in questo caso. Alla fine della conferenza stampa che non avrebbe mai più, che è stato un grande onore, un grande piacere, non avrebbe mai lui, più allenato la nazionale italiana, anche se i risultati sono stati negativi, sedersi sulla panchina della nazionale, e che di fatto questa esperienza si chiudeva, si sarebbe di fatto dimesso, e poi la buona uscita, tanto poco che sia, è chiaro che è una cosa che riguarda gli avvocati e riguarda i rapporti di lavoro, i giuslavoristi, però chiaro. Ecco, in questo momento si sta invece veramente dando l'idea di un commissario tecnico, e mi dispiace che sta lì aggrappato alla poltrona, anzi alla panchina di una nazionale dove onestamente nessuno lo vuole più, quindi che cerca di farsi esonerare. Questa mi sembra veramente una cosa, hai ragione, no, una cosa poco elegante, che fa male al personaggio Ventura, che ripeto poi è una persona che fino a un paio di mesi fa sembrava in controllo della situazione, che ha avuto un'onestissima carriera, probabilmente, e l'hanno dimostrato i fatti, non all'altezza di una panchina così importante come quella della nazionale, ma ha avuto comunque un'onestissima carriera. Uh-huh. Non è che adesso è diventato il più scarso, no, ma no, della ma terra, evidente, né è diventato una cattiva no, persona. No, però, assolutamente. Però non stiamo dicendo questo. Male. Non stiamo dicendo questo. Mauro, buongiorno. No, appunto, lo so che lo stai dicendo. Mauro, pronto? Dica. Quindi io volevo dire soltanto una cosa. A me, vabbè, non sei qualificato, ci dispiace, vabbè, ma una cosa che mi ha fatto più vergognare è all'inno dell'inno svedese, una Maria di Fischi, mi ha fatto ritornare al mondiale 90. Sì, l'abbiamo Italia-Argentina con quella Maria di Fischi sull'inno. Questa idiozia l'abbiamo inventata noi. Credo che noi si abbia il copyright di questa puttanata, no? Pardon, correggimi se sbaglio. Proprio sì, a quella. Sì, no, guarda, a quella finale mondiale, proprio l'ascoltatore. Uh-huh. anch'io. No, lo ringrazio anch'io. Sì, lì ringrazio l'ascoltatore perché mi era passato di mente di fronte a vicende, diciamo, più stringenti di attualità. Però nella serata bella del pubblico, il pubblico ha spinto, non ha contestato, ha tifato fino al 95esimo e quindi merita un applauso super, perché chi era lì, io non ero lì, ci hanno creduto tutti fino all'ultimo, hanno in qualche modo accolto l'appello di Buffon e degli altri senatori, sono stati vicini alla squadra e hanno lasciato i fischi soltanto dopo il fischio finale. Però quella lì è una stonatura. Fammi anche aggiungere che insomma, non è il peggior peccato del mondo, ma anche quel ogni volta che c'è il rinvio, ecco, cioè non è proprio il massimo. Mi permetto sommessamente di dirlo, sono quelle piccole cose che tanto, ma che serve? A nulla. Se no dimostrare soltanto un a fare po' una di brutta figura. Sì, sì. A dimostrare un po' di ignoranza. Allora io non, per carità, non carichiamo questa roba qui di significati. Però io vorrei che chi l'altro giorno stava lì e urlava merda, si faccia una domanda sul fatto che quella roba lì è volgare, è poco elegante, è inutile, non serve a niente, cioè, perché di questo stiamo parlando, stiamo parlando di una cosa che sicuramente la gente avrà fatto lì così, sì, per seguire gli sì, altri, perché è un'altra pessima abitudine, è come quando diciamo le parolacce, esatto, per abitudine e non sta bene, esatto, lo sappiamo tutti, esatto, anche esatto, qui dove qualche volta le diciamo. Marco da Roma. Sì, salve, complimenti per la trasmissione. Io volevo dire che sono molto d'accordo con quello che ha detto Pierluigi Pardo e anche Cruciani, che hanno avuto due visioni completamente diverse. Nel Quindi senso, come fai a essere d'accordo o con uno detto, o con l'altro? No, mi spiego perché. Allora, Pardo ha detto che abbiamo sbagliato quattro partite e io sono abbastanza d'accordo, nel senso che penso che questa non sia una squadra che non ha qualità, nel senso che questo gruppo, se andiamo a vedere, è lo stesso che con Conte ha eliminato la Spagna e ha quasi battuto la Germania, e anzi nella formazione titolare ci sono i giocatori più forti, perché in valore assoluto credo che Immobile e Belotti siano Eder e Pelé, quindi credo che da questo punto di vista, dal punto di vista tecnico, ci siano delle evidenti colpe del compagno, perché il gruppo è lo stesso. Sì, con un paio d'anni in più e già allora non erano freschissimi. Comunque, va bene. Esatto. Per quanto riguarda invece il discorso dei giovani, io non credo che come nel 2010 la nazionale di Lippi o nel 2014 la nazionale di Prandelli non ci siano i giovani. Il problema è che non giocano nelle squadre, perché adesso i giovani ci sono rispetto a 7 anni fa, cioè i vari Verratti, Florenzi, Rugani, Caldara, Romagnoli, 7 anni fa non c'erano. Quindi c'è del potenziale su cui bisogna lavorare. Sì, per Marco, però se non giocano, mi viene da dire, una ragione ci sarà. Dobbiamo fermarci un attimo per la borsa, ma torniamo approfondendo questi discorsi con altri ospiti. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20, manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Dunque torniamo al volo sorpresona. Pardo, ci sei? Sì. Ok, perfetto. No, perché abbiamo in collegamento, ringrazio anche Claudio Schiattone, che ha collaborato attivamente a questo, Gabriele Gravina, che è, come sapete, presidente della Lega C, o come vorrebbe chiamarla, o quella che è la Lega Pro. Comunque, un rappresentante di una delle 6 componenti che, come ci ha spiegato prima Antonello Valentini, si presenteranno oggi a decidere, grosso modo, il futuro immediato del calcio italiano. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno, grazie a lei. Senta, le chiedo subito e in maniera abbastanza diretta, quali posizioni presenterà per quanto la riguarda, da una delle 6 componenti, per quanto riguarda ovviamente il presidente federale e il commissario tecnico? Ma sono in linea di coerenza, io confermerò quanto già ho comunicato prima, alla vigilia della gara contro la Svezia. Io credo che il problema non può essere semplificato nell'attribuire o assegnare responsabilità in capo ad un soggetto o un altro. È chiaro che la posizione è una posizione critica, ma non può riguardare una rivoluzione indispensabile nel nostro mondo, nel sistema calcio, che richiede in maniera decisa una riforma di sistema, e non si può comunque affrontare questo tema soltanto in maniera molto istruttiva nell'individuare la fiducia o la sfiducia al presidente federale. Per me il tecnico sicuramente è una, in termini di posizione politica, per me da esonerare, e certo, non c'è più da riflettere. Sulla posizione politica del presidente federale ho visto che da più parti sono state indicate le dimissioni sono un fatto soggettivo. Io da politico, da responsabile, cioè, credo che noi dobbiamo... Aspetti, la invito a ripetere questo che era particolarmente importante, la linea purtroppo è disturbata. Gravina, buongiorno, è lì? Pronto? Eccolo, pronto? Gravina. No, lo stiamo richiamando, no, volevo capire in maniera netta qual era la sua posizione riguardo al presidente federale, insomma, perché mi sembra abbastanza importante. Per ora abbiamo colto il segno della necessità di esonerare Ventura, l'allenatore, ma poi che il fatto che la decisione invece di Tavecchio è una decisione di carattere soggettivo. Sì, decisione di Tavecchio è di carattere soggettivo, ma ora che si fa? Perché è chiaro che qualcosa bisogna pur decidere, cioè Tavecchio o prosegue o si ferma qui soggettivamente o oggettivamente, lasciami dire, è tornato Gabriele Gravina. Non abbiamo sentito l'ultima parte del suo discorso, quella relativa a Tavecchio, che mi sembrava particolarmente importante. Carlo Tavecchio, in quanto presidente federale, ho visto da più parti sono state invocate le sue dimissioni, ma questo è un fatto soggettivo, sì, riguarda una scelta personale. Io posso esprimere una posizione politica che è ad ampio respiro, chi mi conosce sa che porto avanti una serie di idee già da tempo, e mi dispiace così sottolineare come in questi casi purtroppo il nostro paese dimostra sempre quella sorta di conservatorismo compassionevole che tipicizza alcuni comportamenti, perché non vogliamo affrontare le cause che poi sono le cause generatrici di alcuni effetti nell'immediato che al di là del fatto che è chiaro sono una decisione soggettiva, però se ci fosse da votare resti o non resti, lei che farebbe? No, non credo che sarà richiesta una votazione, sarà richiesta una presa di posizione. Io non voglio assolutamente votare, io voglio esprimere una posizione diversa sulla progettualità del nostro mondo. A me non interessa chi è l'uomo che governa la federazione, ma interessa che l'uomo sia in grado di garantire al nostro sistema una rivoluzione con una rivoluzione proprio generale, e quello che io chiedo oggi è un progetto che riesca a catalizzare in tempi rapidi tutte le negatività e rigeneri l'entusiasmo che purtroppo abbiamo perso. In sostanza, ripetere, forse, e la storia ci dà anche ragione sotto questo profilo, quanto è già successo con Calciopolo. Noi abbiamo una capacità di reazione come popolo italiano straordinario. Certo, non andare ai mondiali è una tragedia per dal punto di vista sportivo, certo, sociale, sportivo, economico, possiamo aggiungere utilizzo anche l'aggettivo usato dal presidente federale Tavecchio, un apocalisse. Noi dobbiamo avere la capacità di rimboccarci le maniche, dire subito da domani che abbiamo bisogno di rafforzare per esempio tutta la parte relativa alle seconde squadre, abbiamo bisogno di rilanciare un'idea di semiprofessionismo, abbiamo bisogno di rilanciare una valorizzazione del professionismo in Italia, rilanciare e istituire immediatamente le accademie, e forse se abbiamo voglia di mettere a posto anche le nostre strutture, probabilmente dobbiamo comunque renderci subito protagonisti nel rivendicare il nostro ruolo di organizzatore, per esempio, di Euro 2024. Prego. Dico, appunto per questo, le posso chiedere che valutazione complessiva dà della gestione Tavecchio fino a questo momento, nel senso che chiaramente la parte sportiva legata alla scelta dell'allenatore della nazionale, poi va anche ricordato, ho fatto anche ieri sera la Floris, che Tavecchio è lo stesso che aveva scelto Conte, questo è un discorso che secondo me va detto per onestà intellettuale, quindi diciamo la prima scelta è stata molto azzeccata, la seconda è stata molto negativa, ma al di là di questo, lei che giudizio dà della presidenza Tavecchio ad oggi? Ma Tavecchio, come sapete, non è stato il mio candidato, la mia preferenza, l'indicazione è stata rivolta e diretta ad un altro candidato. Negli ultimi tempi Tavecchio ha dimostrato un equilibrio importante. Sotto il profilo tecnico io non me la sento, sono stato presidente di una squadra di calcio, non posso pensare quando sono retrocesso di poter meritare l'esonero a livello ambientale. Per questo cerco di spostare un attimo l'attenzione. Io non credo che la soluzione del problema, poi è chiaro, se vogliamo attivare anche meccanismi, come dicevo prima, collegati alla compassione, è certo che scattano i sentimenti della tenerezza e del dispiacere, ma in questo momento io credo che sia indispensabile un atto di responsabilità da parte del Presidente federale, ma credo che sia altrettanto responsabile da parte di tutti le componenti cominciare a ragionare con una logica che non è più la logica molecolare nel coltivare il proprio orticello, ma nel valorizzare al meglio quelle che sono le reali risorse del calcio italiano. Quindi, mi scusi, se non ho capito male, lei si aspetta che Tavecchio rimetta il mandato, in qualche modo lo metta nelle mani delle altre componenti e che le componenti gli confermino la fiducia, o ho capito male? No, questo la decisione la lascio a Tavecchio. Io mi riserverò comunque nella sede opportuno di esprimere, come dicevo, la mia posizione politica. Certo, non è una posizione non critica per tutto quello che è successo, ma è evidente, ma devo anche valutare quali sono i rischi di un vuoto di potere in un momento in cui oggi non ci sono ancora, tra l'altro, due leghe professionistiche che sono le più importanti in Italia che non hanno una governance. Se non ho capito male, secondo lei comunque ci sarebbe un rischio in caso di dimissioni? È un rischio altissimo, anche perché si corre veramente, è un rischio da valutare con molta attenzione, valutando sia i pro che i contro. Sottolineo ancora una volta che la mia è una posizione sicuramente critica, perché lo è stata prima delle elezioni, lo è stato durante la gestione e lo sarà ancora di più un domani in cui io non dovessi avere un argomento reale e concreto di una rivoluzione generale. Va bene, la ringrazio, buon lavoro Gabriele Gravina, che ricordo grazie, bocca al lupo, presidente della Lega C o Lega Pro, come volete, meglio chiamare la Lega C, così perché capiamo tutti, uno dei portavoci, queste sei componenti che oggi insomma parleranno del futuro del calcio italiano in quello che non è il Consiglio federale, ma come sta spiegando Antonio Valentini, riunione federale, ma importante uguale, insomma. Traffico. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. A questo punto, caro Pardo, non poteva mancare un campione del mondo, no? Giusto? No, vai! Ciccio Graziani, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi ragazzi. Vai tu a fare CT? Io la farei volare questa nazionale, altro che... Mettendo le cose a posto, ognuno deve giocare al proprio posto, fare prendere i migliori talenti, assemblarli e farli giocare insieme. Niente, non si deve inventare niente. Devi mettere in campo un pochino più di qualità, e invece l'errore di Ventura, che ha anteposto l'assetto tattico alla qualità tecnica di alcuni giocatori. Ora io dico che non possiamo pensare che Insigne fosse il salvatore della patria, ma contro quella gente lì che sono forti fisicamente, ma non può giocare un quarto d'ora in due partite Insigne, non esiste. No, ma posso dirti anche una cosa, scusa, dal punto di vista anche strettamente di furbizia dello stesso commissario tecnico, voglio dire, lui si è esposto, ripeto, Insigne non è Baggio, ovviamente, non è Del Piero, non è Totti, gli auguriamo di diventarlo perché ha ancora tanti anni e quindi facciamo grande in bocca al lupo, però è il giocatore di maggior talento offensivo di questa squadra, di maggiore creatività. Questa scelta è una scelta che sarà ancora più rischiosa, al di là dell'aspetto tecnico c'è anche proprio un aspetto complessivo. Perché si è andato a cercare questa situazione d'avventura. Io Pierluigi faccio anche un discorso tattico, no? A un certo punto tu nel primo tempo, gli ultimi 15 minuti l'hai messo un po' in difficoltà con quell'arrembaggio sugli esterni, perché, però hai visto anche che andavi spesso a cozzare contro un muro, perché Immobile di testa non è la sua forza. Gabbiadini, io non posso vedere un centravanti, un attaccante che va a battere i calci d'angolo, per me è contro ogni logica, ma io dico, tu rientri ancora con i tre difensori quando loro non c'hanno manco più una punta davanti, allora togli i Barzagli e togli Gabbiadini, metti De Rossi, metti Florenzi a fare il terzino, metti De Rossi in mezzo al campo e metti Insigne con un 4-3-3. Se tu con una strategia non spondi e ti rendi conto che stai andando a costare contro un muro, cambia la sua strategia. Io come abbia fatto a non ragionare, io quando ho rivisto la stessa squadra nel secondo tempo ho detto siamo rovinati. Sì, no, cioè io ho detto siamo rovinati il giorno di Italia-Spagna, di Spagna-Italia, se posso dirti, perché è quella la partita in cui questo progetto, che già era abbastanza di carta, di cartone, di carta pesta, della carta che vuoi, anche quella igienica volendo, ma guarda, lì è crollato. Io ero ottimista mi sono sbagliato, penso che all'andata, lo commentavamo l'altro giorno, il venerdì, scegliere quel tipo di modulo che ci poteva dare una forza difensiva a prova di bomba era la soluzione anche giusta, e l'ho detto venerdì scorso e non cambio le opinioni, tanto ci sono registrazioni. Pensavo che quel tipo di formula potesse essere utile, ma poi dopo che perdi quella partita 1-0 devi fare partita offensiva, ti devi affidare al talento, e non è stato fatto. Sì, in ogni caso è evidente che quella è la madre quella partita è stata la madre dell'eliminazione dal mondiale per tutto quello che è successo, perché Ventura è stato sfiduciato da allora. Mo che se fa, Ciccio Graziani? Ma bisogna ripartire, perché dopo la tempesta esce sempre il sole. Certo, è lunga però, È lunga, però guarda, se io mi guardo indietro, guardo tanti elementi che stanno emergendo in questi ultimi tempi, anche attraverso l'Under 21. Noi abbiamo il dopo Buffon e Donnarumma, abbiamo Spinazzola, abbiamo i Conti, abbiamo i Caldara, crescerà Rugani, il Chiesa, Pellegrini, abbiamo dei ragazzi bravi in prospettiva, poi rimangono gli Immobili, Belotti, Verratti, Jorginho, i Parolo, crescerà qualcun altro, Florenzi, qualcosa di buono ci rimane, e abbiamo dei giovani che in prospettiva potrebbero regalarci grande soddisfazione, ma ci vuole un selezionatore capace. In questo momento io faccio due nomi. Uno, che è il più solido di tutti, che è Carlo Ancelotti, mio amico Carlo, sarebbe il massimo nei prossimi 4 anni affidargli la rinascita di questo nostro calcio. E l'altro, io spenderei una parola sicuramente per Claudio Gentile, perché Claudio Gentile, al di là che è un mio grande amico con cui ho condiviso momenti meravigliosi, ma lui nel suo percorso in federazione ha vinto bene, ha vinto l'europeo, ha carisma, ha personalità. Il calcio italiano ha dimenticato un po' Claudio Gentile, e questo mi dispiace da morire, perché Claudio è capace a fare il selezionatore. Sì, sì, l'ha dimostrato con l'Under 21, e poi c'è questa storia finita, questo rapporto finito male con la Federcalcio, e quindi... Ma adesso che però si resetta tutto, si mandano a casa tutti, Tavecchio, tutti i suoi collaboratori. Vediamo Ciccio, vediamo. Questi dovrebbe avere il tutore, Tavecchio, di dimettersi. Se è una persona per bene si dovrebbe dimettere, perché ha fallito completamente in quel progetto. Sì, ho capito Ventura. Ciccio, ma Ventura non si è dimesso né uno né l'altro, tutti e due hanno preso tempo. Oggi Ventura verrà dimissionato dalla riunione di qui sopra, e se Ventura si fa dimissionare o si fa licenziare, fa una figura bruttissima. Perché lui abbiamo apprezzato la buona fede e le sue idee, che però non collimavano con le nostre, perché io ero in disaccordo su certe scelte, però possiamo dire che lui è una persona seria, onesta, ha deciso di andare in guerra con quell'assetto tattico, con quei giocatori. Sì. Purtroppo i risultati non ci sono, ma questo noi glielo riconosciamo, ma lui deve avere la dignità di dimettersi, perché ha fallito completamente. Sì, ma di questo abbiamo parlato, però insomma io mi aspetto comunque al termine della giornata di oggi una nazionale italiana senza più commissario tecnico, poi vedremo chi sarà, e con lo stesso presidente federale, perché questo mi sembra il senso del discorso. Però visto che c'è il sole dopo la tempesta, devo dire che io stracondivido il ragionamento sul futuro di Ciccio dal punto di vista degli uomini, nel senso che secondo me la fase, ed è un paradosso di questa vicenda qui, secondo me, mi sbaglierò, la fase più acuta della crisi del calcio italiano è alle spalle. Noi oggi abbiamo, insomma, l'Under 20 è arrivata per la prima volta nella sua vita sul podio, cosa che non era mai successa prima. Abbiamo una generazione di giocatori interessanti, secondo me, e quelli che ricordate Ciccio sono assolutamente giocatori interessanti. Sì, certo, però è anche vero, non costringimi a essere pessimista, però abbiamo anche la storia piena di grandi nazionali under 21 che hanno ottenuto eccellenti risultati, che poi non sono riusciti a trasformarsi nella nazionale maggiore. Però siamo meglio di 3 anni fa, Carlo, ma sono d'accordo. C'è vita, su questo pianeta. Su questo pianeta c'è ancora vita. Bene, grazie a tutti. Grazie Ciccio, Graziani. Ciao, sentiamo, sta claro, domani pomeriggio 14 tutti convocati, naturalmente vedremo cosa avrà partorito la giornata di oggi, torneremo su questi temi eccetera eccetera con altri ospiti. Giorgio Druga, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Bene, a domani, ciao. Oh, e casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.